Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. State ascoltando Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La voce in onda è quella di Camilla Lattanzi in rappresentanza del resto della redazione. Oggi abbiamo programmato per voi una puntata tutta estiva. Parleremo di un modo molto speciale e naturalmente molto animalista di trascorrere una vacanza in moto e rispolveriamo la rubrica Le vite degli altri, ritratti di animalisti illustri. Dopo Giuseppe Garibaldi parleremo oggi di Henry Salt, un altro gigantesco personaggio del pensiero e dell'azione animalista. È estate, tempo di viaggi e vacanze. Paolo Susana di Gorizia ha scelto di fare un viaggio in sidecar in compagnia di Smilla, il suo cane, e compagna adottata in un canile. Questo viaggio vuole essere un modo per raccontare la storia di tutti quei cani che, meno fortunati di Smilla, soffrono e aspettano la loro occasione nei canili e nei rifugi d'Italia. Il progetto di questo viaggio, che si concluderà dopo 4.000 chilometri, è, come dice il blog di Paolo, un sogno ma anche una pazzia. E qualcuno tuttavia ci ha creduto, quindi il sogno si è realizzato. Paolo e Smilla sono partiti il 26 luglio da Gorizia e oggi sono sotto gli occhi di tutti grazie a un blog e a una pagina Facebook che si chiamano Sidecar Smilla, un cane in sidecar per tacer dell'uomo. Abbiamo raggiunto Paolo Susana, che ora è in Sardegna, e gli abbiamo chiesto di raccontarci questa sua originalissima esperienza. Allora, io sono partito il 26 luglio da Gorizia e ho cominciato le mie visite dei rifugi per animali abbandonati in Veneto, visitando due rifugi, e poi sono passato in Piemonte. Dal Piemonte sono andato in Toscana, dove ne ho visitati tre, compresa la cena in carcere a Volterra, dove ci siamo conosciuti. E adesso sono in Sardegna, dove ne visiterò due. Uno l'ho già visitato, uno lo visiterò dopodomani. Dopo di qui tornerò in continente, vado a Grosseto e poi in Lazio, Marche, Abruzzo, Marche, Umbria, Repubblica di San Marino, Emilia Romagna, e poi rientro a Gorizia per la quarta edizione del Festival Vegetariano di Gorizia. Ma le associazioni che ho visitato io sono quasi tutte associazioni gestite da privati, sono dei rifugi per animali abbandonati. Alcuni hanno delle convenzioni con i comuni e quindi prendono dei soldi per gestire i cani, altri addirittura no e quindi si arrangiano esclusivamente con il volontariato. Quelli che ho visitato finora devo dire che sono belli, nel senso che sono gestiti da persone che credono in quello che fanno. Alcuni non sono belli, avrebbero bisogno di aiuto, però gli animali sono trattati benissimo e quindi per ora tutto bene, diciamo. E ci sono alcune realtà a cui io ho mandato la proposta per vedere se potevo visitare, che non mi hanno risposto. E purtroppo la gran parte di queste cose sono accadute nel sud Italia, infatti io non sono riuscito ad ufficializzare nulla al di sotto di Latina come appuntamenti. E questo mi fa pensare adesso quale sia la realtà, bisognerebbe andare e fare un'improvvisata, ma questo vedremo, forse sarà il 7 per 2002 probabilmente. Quindi tu hai già fatto a oggi, dopo Veneto, Piemonte, Toscana e Sardegna, 2.000 chilometri, mi dicevi, ma ne farai almeno altrettanti? Sì, circa sì, adesso di preciso non ho fatto dei calcoli precisi, ma dovremmo essere intorno ai 3.600-3.800 chilometri, viaggio compreso, anche perché io viaggio con un sidecar, per cui percorro tutte strade provinciali e statali, e quindi i chilometri sono tanti. I chilometri sono tanti e la velocità sarà... Sui 70 all'ora. Di più non è gestibile, e poi appunto per il benessere di Smilla, che è la mia ospite a bordo del Side, quindi non posso sicuramente metterla a repentaglio. Ecco, questo viaggio si chiama Sidecar Smilla e quindi Smilla è protagonista insieme a te, rappresenta anche molto bene gli obiettivi. Raccontaci qualcosa di Smilla e del tuo rapporto con lei. Smilla è una trovatella che io ho preso in un rifugio ormai 8 anni fa, adesso ne ha 9 e mezzo, sta con me da quella volta lì e abbiamo fatto molti viaggi assieme. Questo è un viaggio che vogliamo fare anche per gli altri cani che non sono stati fortunati come lei. Come si sta comportando Smilla nel sidecar? Molto bene, perché gli ho allestito in maniera ottimale, ha un materassino molto lungo dove può dormire, ha una cappottina che la ripara dal sole e un parabrezza che la ripara dalle intemperie. Quindi va bene, sono più stremato io la sera quando arrivo che lei, insomma. Anche perché non ho più 20 anni, quindi il fisico mi sostiene poco. Quindi chi vuole seguirti può trovare un blog dove tu cerchi di postare i tuoi spostamenti e i risultati delle tue visite. No, si chiama sidecarsmilla.blogspot.it. C'è anche una pagina Facebook che è sidecarsmilla, dove anche lì ci sono notizie, comunque curiosità varie. Come nasce la tua idea di questo viaggio? Come mai in sidecar? Il sidecar perché è un mezzo, diciamo, romantico e comunque abbastanza appariscente, ecco, quindi se era un'idea che nasceva per dare una visibilità a un determinato argomento, mi sembrava il mezzo migliore. Poi è assolutamente l'unico mezzo decoroso per portare un cane in moto, ecco. Avevi già fatto dei viaggi in sidecar con Smilla prima? No, in sidecar no, abbiamo fatto viaggi con altri mezzi, ma in sidecar no. Avevo provato con un sidecar di un amico per vedere che effetto le faceva e le è piaciuto da subito, quindi ho pensato che era il caso di comprarlo e di fare questa cosa. Chiaramente questa operazione ha un costo e per coprire questo costo hai avuto bisogno di uno sponsor. Diciamo due parole anche sì, su questo. Sì. Certo, lo sponsor è la Biolab Vigorizia, che è una ditta che produce alimenti biologici per vegani e vegetariani. È una ditta che crede molto in questo genere di idee qui, organizza il festival vegetariano da ormai 4 anni, e quando ho proposto la mia idea si sono entusiasmati subito per le motivazioni e mi hanno sostenuto completamente, non solo a livello economico ma anche a livello di organizzazione, perché mi hanno messo a disposizione appunto la segreteria organizzativa del festival vegetariano, un ufficio stampa che mi aiuta insomma nel farmi avere contatti con le varie testate, quindi insomma mi hanno sostenuto con forza, hanno creduto molto in questa cosa qui. Noi ci risentiremo alla fine del tuo percorso, penso in occasione del festival vegetariano, magari ti richiamiamo per un bilancio definitivo. Intanto chi vuole seguirti, sidecarsmilla.blogspot.com. Paolo, Susana, restiamo animali? Certo, restiamo animali. Le vite degli altri, piccoli ritratti di animalisti illustri. It witnessed many a deed and vow, we must not change its color now, then raise the sky. Oggi vogliamo parlarvi di un personaggio straordinario, poco noto al grande pubblico, ma che ha avuto un ruolo molto importante nella elaborazione del moderno pensiero animalista e antispecista e nello sviluppo anche di una filosofia di vita non violenta nel mondo occidentale. Parliamo di Henry Salt, scrittore e attivista britannico vissuto fra il 1851 e il 1939. La vicenda di Henry Salt colpisce per la sua modernità, per la sorprendente attualità del suo pensiero. È l'autore cui si deve la nozione stessa di diritti animali, titolo di un suo libro del 1892, e soprattutto è il primo pensatore attivista a collegare strettamente la lotta per la libertà e l'uguaglianza fra gli uomini alla liberazione animale. Peter Singer, il filosofo australiano che col suo libro Liberazione animale del 1975 può essere considerato il padre dell'animalismo moderno, riconosce la straordinaria azione pionieristica di Salt. a leggere le sue opere si resta meravigliati, ha scritto, della sua capacità di anticipare quasi ogni punto del dibattito contemporaneo sui diritti animali. Figlio di un ufficiale dell'esercito britannico, Henry Salt nacque in India, ma visse poi la sua vita in Inghilterra. Fu docente di materie classiche e autore di oltre 40 libri a cavallo fra letteratura, impegno civile e filosofia. Coltivò per tutta la vita ideali socialisti e fondò nel 1891 la Humanitarian League, che si diede il compito di combattere le ingiustizie e le diseguaglianze sociali. Si batté, fra l'altro, contro la pena di morte e per una riforma del sistema carcerario. Nella sua visione di progresso umano, la lotta contro le diseguaglianze, in una parola il percorso verso una società più giusta, riguardava anche il destino degli animali, comprendeva cioè tutti gli esseri viventi. Non a caso il titolo completo del suo libro fondamentale, purtroppo non disponibile in italiano, è Animals' Rights Considered in Relation to Social Progress, i diritti degli animali in relazione al progresso sociale. L'emancipazione degli uomini dalla crudeltà e dall'ingiustizia, vi si legge, porterà con sé, a tempo debito, anche l'emancipazione degli animali. Le due riforme sono inseparabili e nessuna delle due può essere completamente realizzata da sola. Come si vede, questo è un concetto che colloca Salt nella parte più avanzata del movimento animalista e antispecista contemporaneo. Eppure egli scriveva quel libro in un'epoca in cui in Italia, per dire, esisteva a malapena la prima società di protezione degli animali, promossa fra gli altri da Giuseppe Garibaldi. Come scrisse nel 1892, la nostra non è una richiesta di pietà, ma di giustizia. Occorre coltivare un ampio senso di universale giustizia, non di pietà, verso tutti gli esseri viventi. Salt era dunque un riformatore sociale, un socialista non marxista che criticava fortemente il capitalismo in grande crescita. Nella sua analisi stupisce un'altra considerazione per la sua capacità di cogliere il nesso che univa e che unisce tuttora la condizione animale al sistema produttivo industriale. Le vittime dei carnivori umani, scriveva, sono nutrite, allevate, predestinate fin dall'inizio alla finale macellazione, così che il loro intero modo di vita è programmato a tal fine, è alterato dal suo standard naturale, ed esse non sono più nient'altro che carne animata. È una frase che sembra scritta oggi e non a fine Ottocento. Salt fu amico di George Bernard Shaw e biografo di Henry David Thoreau, il primo teorico della disobbedienza civile, ed ebbe un ruolo importante anche per la vita e la visione politica del Mahatma Gandhi. Un altro libro importante di Henry Salt è infatti A Plea for Vegetarianism, che possiamo tradurre in difesa del vegetarianismo. Questo testo fu pubblicato nel 1886 a cura della Vegetarian Society, quella stessa società che Gandhi ebbe l'occasione di frequentare durante il suo soggiorno di studio a Londra fra il 1888 e il 1891. È noto che Gandhi apparteneva a una casta di commercianti che praticava il vegetarismo, ma è altrettanto noto che il futuro Mahatma, nel concepire le sue giovanili concezioni anticolonialiste, si allontanò per qualche tempo dalla scelta vegetariana. Per un periodo mangiò carne, convinto che una dieta del genere fornisse maggiore forza fisica e mentale, e che quindi il vegetarismo fosse un fattore di debolezza per la nascente nazione indiana. Prima di partire per l'Inghilterra, all'età di 19 anni, Gandhi fu comunque costretto a promettere alla madre che non avrebbe consumato né alcol né cibo di origine animale. E così, una volta giunto a Londra, cominciò a frequentare un ristorante vegetariano, nel quale entrò in contatto appunto con la Vegetarian Society, l'organizzazione nella quale mosse i suoi primi passi da attivista sociale e politico. Fu un'esperienza molto importante per il futuro liberatore dell'India ed Henry Salt ebbe un ruolo significativo nello sviluppo delle sue convinzioni. Fu lo stesso Gandhi, partecipando a un'assemblea della Vegetarian Society nel 1931, quindi 40 anni dopo aver lasciato Londra e l'università nella quale aveva studiato, a riconoscere il suo debito nei confronti di Henry Salt e del suo libro. Fu A Plea for Vegetarianism, disse Gandhi in quell'occasione, che mi mostrò, a prescindere dal mio vegetarismo, al quale fui educato da mia madre secondo la nostra tradizione, perché fosse giusto essere vegetariani. Quel libro mi mostrò come fosse un dovere morale non vivere la propria vita a scapito dei fratelli animali. Henry Salt nella sua lunga vita lottò anche contro la vivisezione e impegnò la Humanitarian League in una lunga lotta contro la caccia e contro quelli che chiamava blood sports, sport sanguinari, come la caccia competitiva al cervo o il tiro al piccione. Salt era un uomo che credeva nel progresso, nel cambiamento, nella possibilità di lottare per la giustizia avendo fiducia nel futuro. fu anche un antesignano del moderno ambientalismo. Diceva che l'umanitarismo non è una semplice espressione di simpatia verso chi soffre, è una protesta contro ogni tirannia e profanazione, sia che i torti consistano in sofferenze inflitte ad esseri viventi, sia che si tratti di vandalismi che distruggono brutalmente la naturale grazia della terra. Chiudiamo con questa sua affermazione. Nella misura in cui l'uomo sarà veramente umanizzato, non dalle scuole di cucina, ma dalla scuola del pensiero, egli abbandonerà le barbare abitudini dei suoi antenati carnivori e progredirà gradualmente verso una nutrizione più pura, più semplice, più umana e quindi più civile. And humankind, then raise the scarlet standard high beneath it. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti: restiamoanimali@controradio.it.